Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Paolo Scaroni, 69 anni, vicentino, sposato con 3 figli, laurea alla Bocconi, una carriera in continua crescita, dalla Saint-Gobain alla McKinsey alla Techint, poi dal 2002 al 2005 amministratore delegato dell'Enel e dal 2005 al 2014 amministratore delegato e direttore generale dell'ENI. Nel 92 coinvolto in Mani Pulite, ne esce per estinzione del reato, come viene prosciolto recentemente per le presunte tangenti pagate in Algeria. Oggi, tra i molti ruoli, nel board della Columbia University, della Fondazione Teatro La Scala, ma soprattutto deputy chairman di Rothschild. E tra i manager italiani più prestigiosi al mondo, e adesso è candidato a tutto. Allora, Scaroni, nuovo presidente dei generali, Scaroni? No, guardi, nessuno me l'ha proposto e comunque non lo accetterei. No, perché? Perché mi piace molto stare alla banca Rothschild e sarebbe incompatibile. Senta, lei dice no, quindi un no ufficiale. No ufficiale. Beh, l'Ilva è disposto a salvarla, si parla anche dell'Ilva. Allora, il processo di dismissione dell'Ilva è appena iniziato, è molto presto per fare ragionamenti intorno all'Ilva. Diciamo che se si creasse una cordata italiana che avesse bisogno di una persona che conosce un po' il mondo dell'acciaio, ci penserei. Ah, ma quindi non diciamo no. Non diciamo no. Non diciamo no. Ecco, infatti dicono tutti che ci vuole un manager di prestigio internazionale. Ma qualcuno gliel'ha chiesto intanto? Beh, qualcuno me l'ha ventilato, ma le ripeto, siccome siamo in una fase molto iniziale, è difficile ventilare ipotesi così remote. Ma quindi è un problema risolvibile in ogni caso quello dell'Ilva? No, è un problema difficilissimo, io spero risolvibile, ma proprio perché è difficile la considero una sfida bella da affrontare per una cosa importante per l'Italia. Quindi non è una partita persa in partenza? No, no. E non deve essere persa in partenza, guai se così fosse. Senta, di Renzi gliene ha parlato dell'Ilva? Ho parlato anche dell'Ilva con il Presidente del Consiglio, sì. È un tema che lo preoccupa molto. Ma cosa pensa lei di Renzi? Ma io penso che fino ad oggi abbia fatto nell'insieme bene, che abbia riportato la politica nel suo ruolo e che quindi sia in grado di prendere decisioni di cambiamento per il nostro paese. Ma e che cosa invece non le piace? Ma non mi piace, io considero che la sua squadra di governo non sia così forte, per cui tutti i problemi rimontano a lui e alla fine governare un paese da solo non è facile. Senta Scaroni, restiamo alle candidature vere e finte che mi sta dicendo. Generali no, Ilva forse, Confindustria forse? No, no, Confindustria no. Per niente? Ma no, perché io sto a Londra, cioè siccome non ho nessuna intenzione di lasciare il mio ruolo alla banca Rothschild, capisce che non posso occuparmi di temi romani. Quindi chi dice che il suo sponsor sia Gianfelice Rocca non è vero, insomma. Non so se Gianfelice sia mio sponsor, siamo amici da comunque tanti non anni. Importa, non dice importa. Lei. Senta, lei però è stato in Confindustria. Di cosa ha bisogno la Confindustria, secondo lei? Ma guardi, allora io penso che i fasti della Confindustria del passato, quando la nomina del presidente di Confindustria era il primo titolo del Corriere della Sera, siano un po' dietro di noi. Nel senso che nel mondo solo la Confindustria italiana aveva un ruolo così importante e ce l'aveva proprio perché i governi erano deboli. In un mondo di governi deboli, sindacati e Confindustria erano forti. Adesso che è tornata la politica, forse serve meno. Oggi serve meno. Se io, per esempio, chiedo. Ma ce l'ha un identikit lei del presidente della Confindustria? Ma guardi, futura? Adesso vorrei fare un discorso un po' paradossale. Io penso che tutte le qualità che fanno un grande imprenditore sono le stesse che non servono per fare il presidente di Confindustria. Il grande imprenditore è una persona concreta, pragmatica, che vuole che le cose avvengano. Il presidente di Confindustria è un mestiere da politico, un mestiere da lobbista, e quindi le qualità sono molto diverse quelle che vengono richieste. Senta, adesso sta alla banca Rothschild, l'ha detto, fa che cosa fa? Io mi occupo fondamentalmente dei clienti dell'energia della banca Rothschild nel mondo. Siccome l'energia, e qui elettricità, gas, petrolio, rappresenta 20% più o meno del mondo delle banche, quindi mi occupo di una parte importante. Sì. Ecco, quindi banche, petrolio, che sono i temi al centro dei problemi del mondo, quindi anche della Rothschild. Anche della Rothschild, sì. Lei ha detto una volta, se non creiamo un ascensore sociale, il sistema capitalistico diventerà uno dei più iniqui che ci sia mai stato e come tale verrà spazzato via. Ecco, quanto di questa responsabilità è della turbofinanza speculativa? Allora, non è della turbofinanza speculativa, secondo me è di sistemi fiscali che premiano le rendite e puniscono invece chi lavora. Io sono un grosso critico di un sistema fiscale, qui purtroppo parliamo anche dell'Italia, in cui per esempio, chi ha obbligazioni ha una tassazione bassissima, mentre chi lavora ha una tassazione altissima, molto alta. Sono anche critico di un paese in cui, e qui parliamo dell'Italia, in cui l'imposta sulla successione praticamente non esiste. Allora io penso, per esempio, che per patrimoni importanti l'imposta di successione deve essere elevata. Senta, ma per esempio a Davos, tra chi gestisce sostanzialmente i destini del mondo, c'è la consapevolezza che siamo in un momento di passaggio molto molto complicato, no? Ma a Davos si parla molto di rivoluzione industriale, delle conseguenze dell'automazione sull'occupazione nel mondo, si parla naturalmente delle crisi internazionali, in particolare del Medio Oriente. Non mi sembra che il tema della turbofinanza sia stato al centro del dibattito. Ma lei vede leader mondiali che hanno una sensibilità speciale su questa crisi complessiva del mondo? Lei parla di quale crisi? Parliamo della crisi del sistema capitalistico. Sì, per esempio Cameron in Inghilterra, quindi sto parlando di un leader conservatore, ha fatto delle leggi fiscali estremamente punitive per le rendite e premianti invece per chi lavora. Senta, il fatto che siamo arrivati, per esempio, a un uomo solo, George Soros, che specula contro un paese di 2 miliardi di persone, cioè la Cina, che cosa vuol dire? Ma intanto che dice che specula, perché ci riesca è un altro paio di maniche. Soros, che è reduce, ma reduce ormai da molti anni del successo contro la sterlina, secondo me si pone degli obiettivi che non riuscirà a raggiungere. Sono convinto che l'economia cinese sia strettamente sotto controllo del regime e lo rimarrà ancora a lungo. Senta, le banche comunque stanno catalizzando sempre di più l'ira dei popoli, a torto o a ragione, perché secondo lei? Sono state parte della crisi che abbiamo visto nel 2009-2010, sono oggi ancora, ci sono ancora i cascami di questa crisi, perché quando parliamo delle quattro banche, per esempio, che sono state commissariate, parliamo proprio di una crisi che ha avuto la sua origine nell'industria. Senta, prendiamo appunto l'Italia. È giustificata, secondo lei, la rabbia dei risparmiatori truffati dal decreto salvabanche? Allora, è giustificata in quanto questi obbligazionisti non è stato spiegato bene il rischio che correvano. Ma per esempio il bail-in, ecco, parliamo del bail-in. Sembra che nessuno sapesse veramente che cosa fosse, quali conseguenze avrebbe portato. Una follia questa. No, quali conseguenze porterà il bail-in, perché per il momento non l'ha portata nessuna. Porterà. No, secondo me il bail-in è una cosa molto logica, è assurdo che una banca possa offrire tassi di interesse più elevati e che chi deposita non corra dei rischi più elevati. Senta Scaroni, anche il governatore della Banca d'Italia adesso però dice che il bail-in va rivisto, ma non era meglio dirlo prima che fosse votato in Europa? Sì, era meglio forse dirlo prima, non so cosa abbia fatto prima, magari non è stato ascoltato. Ah, può darsi. Ma di fatto i tedeschi però hanno fatto la pulizia nelle loro banche prima di arrivare al bail-in. Noi no, vuol dire che Consob e Banca d'Italia hanno fatto male il loro dovere? No, vuol dire che non avevamo i quattrini per fare la pulizia che i tedeschi invece avevano. Solo quello? Certo, hanno iniettato più di 100 miliardi di euro nelle loro banche, noi questi soldi non li avevamo. Senta cosa ci ha detto la vedova di Luigino D'Angelo, il risparmiatore che ha perso tutto, si è ucciso dopo aver inseguito inutilmente i suoi soldi a Banca Etruria. Io rivoglio i miei soldi, anche il costo di rimetterci. Mi ha detto, va bene, non mi volete da tutto? Mi dà il 70%, ma contento. Non c'era verso. Da quel momento un'ossessione. Ripeteva di continuo, non sono stato in grado di tutelare la mia famiglia. Ha detto, non ce la faccio io a reggere una situazione del genere. E 10 minuti dopo non c'era più. Ma si è ammazzato. Ecco, difficile pensare che però le banche sono dalla parte dei risparmiatori in questi casi, non crede? Lì non farei un'affermazione generica. No, lì certamente il funzionario della Banca Etruria che ha convinto questo poveretto a mettere il suo denaro in obbligazioni a rischio ha fatto una cosa che non doveva fare, però ci sono centinaia di banchieri che invece i consigli li danno e come. Il governatore della Banca d'Italia ha detto che il sistema italiano di banche è solido, però lo dicevano tutti anche prima. Bisogna credergli ancora? Dobbiamo credergli ancora, sì. è solido, ne sono convinto anch'io. Cioè nel sistema bancario internazionale come vengono giudicate le banche italiane? Lei adesso ha un punto di vista che le consente di dirlo con chiarezza. Dunque le banche italiane hanno un portafoglio di crediti di dubbi più elevato di molte altre banche, come risultato di una crisi economica che ci portiamo alle spalle, certo. cioè non è che è nato per caso. E questo è una preoccupazione, però mi sembra che si stiano costituendo le riserve per far fronte a questi crediti dubbi, ed è per quello che dico che il sistema è solido. Ma tra Renzi e la Merkel nell'incontro dell'altro giorno, sulla bad bank però sembra che sia finito 0-0, così? La mia impressione è che la bad bank si farà. Si farà? Si farà. È necessaria? Ma pulisce i conti delle banche una volta per tutte invece di avere questa pulizia progressiva, e quindi da questo punto di vista sarà quindi una cosa positiva. Quindi lei dice ci sarà la bad bank? Io penso che ci sarà. Lei in passato non è stato tenero sull'Unione Europea. Secondo lei con Schengen, col bail-in, con l'individualismo crescente, con i populismi, siamo alla vigilia del collasso dell'Europa o no? Secondo me il collasso l'abbiamo già avuto, nel senso che per gli europei l'Europa ha smesso di essere un sogno, è diventata una somma di regole, alcune giuste, alcune meno giuste, ma non ci crede più nessuno come ci si credeva una volta. Pensi, gli italiani per esempio, che erano i più europeisti di tutti, oggi meno del 50% degli italiani crede in un'Europa futura. Ma quindi l'euro è a rischio? No, l'euro è ancora un'altra cosa. Mi sembra che l'euro sia stato salvato per i capelli e è un percorso virtuoso in questo momento, quindi non vedo l'euro a rischio. Piuttosto gli ideali dell'Europa sì. Ecco, ma su che base l'Europa può ritrovare un'anima che susciti passioni e valori unitari? Questo è un tema eminentemente politico, certo. Dobbiamo avere un'Europa che sia fatta anche di ideali e non soltanto di regole. Ma ci crede? Ci credo, la mia generazione ci crede da sempre, quindi abbandonare questo sogno è una cosa molto difficile. E in fondo la generazione Erasmus potrebbe essere l'erede di questo sogno. Sì, no, la generazione Erasmus non è necessariamente europea, è una generazione mondiale. Sì. Senta, ma può esistere un'Europa che cerca l'alleanza con la Russia per combattere il terrorismo, ma intanto mantiene le sanzioni contro la Russia? Questa è una contraddizione. È una contraddizione voluta dagli Stati Uniti. Gli Stati Uniti che vogliono spostare la frontiera del mondo occidentale fino all'Ucraina ci hanno imposto di applicare delle sanzioni che gli europei in realtà non vogliono. E non gli convengono. E non convengono. Quindi andrebbero tolte subito. Verranno tolte molto presto. Verranno tolte. Secondo me entro l'estate verranno tolte. Lei conosce bene la Russia e i russi. In Siria, per combattere il terrorismo, siamo più vicini a una nuova guerra fredda fra Stati Uniti e Russia o un accordo tra di loro? Io credo che siamo più vicini a un accordo. L'entrata della Russia in Siria ha spostato completamente i giochi politici e bisogna tenerne conto. Senta, Putin dice però che è impossibile fare la guerra al terrorismo perché l'Occidente non esiste e ognuno gioca per sé. Ora è così o no? Questo non mi sembra vero, no. Direi che non è vero. In queste cose l'Occidente fa quello che gli Stati Uniti vogliono che l'Occidente faccia. Punto. Senta, dottor Scaroni, lei aveva promosso il gasodotto South Stream che avrebbe fatto dell'Italia il punto d'arrivo del gas russo. Perché è stato cancellato? Ma guardi, questa è una storia incredibile. Ho avuto nemici sul South Stream a Bruxelles ferocissimi che hanno portato ad affossare questo progetto. Nel frattempo gli stessi nemici lavoravano per il raddoppio del Nord Stream, che vuol dire far passare più gas attraverso la Germania. Allora, o non vogliamo il gas russo o lo vogliamo, ma se lo vogliamo perché non con il South Stream? E perché no? Ma perché evidentemente la forza... Germania. Certamente il peso della Germania a Bruxelles è molto più importante del nostro. Insomma, ma questa Europa tedesca, lo sta dicendo, fa del bene o del male all'Europa, al di là della Germania? Ma guardi, allora, in termini di rigore finanziario fa bene, perché un po' di rigore per noi paesi dell'Europa del Sud dovevamo averlo per forza. però in termini di ideali europei gli ha dato una mazzata tremenda. Senta, adesso al centro della guerra al terrorismo c'è la Libia. Lei ha detto che le diplomazie del mondo considerano la Libia un problema italiano. Sempre di più così, secondo lei? Ma secondo me sì. Perché? La Libia è un paese vicinissimo all'Italia. Certo. Siamo noi che abbiamo gli immigrati che arrivano attraverso la Libia sulle nostre coste. Abbiamo dei rapporti economici fortissimi. Siamo il paese che deve essere leader nella soluzione del problema libico. Ecco, ma gli americani spingono, dice lei, l'Occidente e l'America, spingono perché l'Italia guidi un'azione vuol dire guerra, contro i terroristi in Libia. È questo che vogliono gli americani? Gli americani vogliono questo da tempo. Io da sempre, da molti anni, dalla caduta di Gheddafi, ho sempre cercato di convincere i nostri leaders che si sono succeduti che senza boots on the ground, cioè senza soldati lì, non si riusciva a rimettere in piedi un regime. Oggi la mia impressione è che tutti attendano che si formi un governo in Libia. Beh, ma mi sembra questo molto lontano ancora, no? Sembra finto questo accordo. Questo non mi pare che vada molto lontano, però poi forse ce ne sarà un altro. E in quel momento il governo che chiede un intervento militare. Cioè prima il governo e poi l'intervento militare. No, perché adesso sembra quasi che invece si vada nella direzione opposta. Prima l'intervento militare. Non mi sembra plausibile. No, ecco. Adesso però la guerra intanto all'ISIS sembra che non la faccia poi quasi nessuno. Senta qua. Numeri che ci dicono quanto scarso sia stato l'impegno della coalizione nei termini di bombardamenti aerei in questo anno. In totale si sono effettuate i paesi della coalizione 6.800 incursioni aeree, al 95% portate a termine da velivoli statunitensi, circa un terzo in Siria e il resto, i due terzi, in Iraq. Per intenderci, questo si è fatto in un anno in Kosovo, solamente in Kosovo, in appena due mesi di guerra contro la Serbia nel 1999, le missioni di attacco furono 38.000, allora gli aerei da combattimento impiegati furono 600, in questo caso quelli schierati sono poco più di un centinaio. Quindi sostanzialmente l'ISIS non lo vuole combattere concretamente nessuno? Beh, solo a parole. Ecco, era Andrea Gaiani, direttore di analisi difesa, numeri abbastanza impressionanti. A proposito della situazione in Siria, sarà diverso con la Libia secondo lei? Ma per il momento non stiamo parlando di bombardamenti. No, lo so, no, ma l'atteggiamento. Ma l'atteggiamento deve essere diverso, ma non tanto in termini di bombardamenti, ma intanto di difesa di un governo libico che si deve costituire e che ci pensi lui a ripulire il suo paese. Ma che non è questo, ma il prossimo. È il prossimo, forse, sì. Ma esattamente la situazione per Leni in Libia qual è? Ma questo bisognerebbe chiederlo a Claudio De Scalzi. Vabbè, io non seguo, giorno per giorno quello che avviene. Leni cosa rischia in Libia in termini generali? Guardi, Eni secondo me rischia relativamente poco perché la gran parte delle sue produzioni sono gas. E il gas serve per far funzionare le centrali elettriche libiche. Quindi vedo, con difficoltà qualcuno che si dia zappa sui piedi. Ma c'è stato complessivamente un errore dell'Italia nell'affrontare la crisi libica? Ah, ma certamente c'è stato un errore, perché nel momento in cui Gheddafi è stato mandato a casa bisognava immediatamente supportare anche militarmente il nuovo regime a prendere, a fare una democrazia compiuta in Libia. Ma c'era qualcuno che doveva occuparsene, insomma, invece è stata lasciata così? Assolutamente, direi tutto il mondo occidentale con l'Italia in testa. E per Leni e per l'Italia era meglio la Libia di Gheddafi? Allora, faccio fatica a spendere una parola a favore di un regime orribile come è stato quello di Gheddafi. Però ad abbattere Gheddafi è stata una guerra dei francesi per conquistare il petrolio libico? Direi di no. No, non ho l'impressione che il petrolio non si fa in quel modo lì, si fa vincendo delle concessioni. Sì, ok, ma i francesi avevano delle mire o no? No, secondo me no. La presenza dei francesi in Libia nel settore del petrolio c'è, esiste ed è a livello normale, quindi non vedo. Quindi lei dice una concorrenza normale quella fra Leni e la Tota, insomma. Sì, francesi. Assolutamente. Adesso si parla di attacchi però sempre più frequenti dell'ISIS ai pozzi dell'Eni, vero? No? Non so che attacchi specifici ci siano, non ho l'impressione che la situazione sia drammatica da questo punto di vista. Senta, il mercato del petrolio è sotto l'effetto di tagli alla produzione e alla speculazione. Dove si fermerà il prezzo del petrolio? Lei è andato via che stava a 100 dollari il petrolio. Esatto, e devo dire che è ben diverso fare l'amministratore delegato dell'Eni col petrolio a 100 dollari che col petrolio a 30. Detto tutto questo, purtroppo temo che rimarrà basso per molto tempo. Per molto tempo, perché? Allora, basso vuol dire anche 50 dollari, sì, non necessariamente i 32 di ieri. Perché di petrolio ce n'è tanto, ce n'è molto. L'entrata nel mercato dello shale oil americano è stato il primo colpo, adesso, l'Iraq è stato un secondo, adesso ci l'Iran. Sarà l'Iran. Quindi... Ma lo scontro tra l'Arabia Saudita e l'Iran avrà conseguenze globali? Cioè gli americani come fanno a stare lì in mezzo? L'entrata nella scena politica dell'Iran, che finalmente è uscito dalle sanzioni, cambia lo schieramento, no? Per cui un Iran non arabo, sciita e una repubblica, è l'arcinemico dell'Arabia Saudita, araba, sunnita, certo, e monarchia. E gli americani sono in mezzo. E gli americani cercano di avere una posizione forte sia nell'Arabia Saudita che in Iran. Beh, è un gioco sottile, ma che secondo me è possibile. Sì, ma è più una guerra di religione tra sunniti e sciiti, una guerra per il petrolio, quella tra Arabia Saudita e Iran? Per me è una guerra di religione. Sono due teocrazie, sia l'Arabia Saudita che l'Iran, che si affrontano. E il petrolio è uno strumento attraverso il quale l'Arabia Saudita vuol minare in particolare l'Iran. Ecco, dottor Scaroni, torniamo in Italia. Se lei potesse eliminare l'ostacolo principale che mina l'economia italiana, un po' l'ha detto prima con le tasse, con il sistema fiscale, quale sceglierebbe, quello? Beh, questo non mi sembra il modo di far ripartire l'economia italiana. Io, guardi, sono convinto che l'economia italiana ed europea ripartirà già nel 2016, perché la combinazione di bassi prezzi del petrolio, tassi di interesse zero, euro debole, è un mix che non può che far ripartire l'economia. Senta, ma qual è il motivo principale per cui gli investitori stranieri, lei dalla Rothschild lo vede, hanno paura a investire in Italia? Beh, molti cambiamenti legislativi, un mondo burocratico di regole non chiare, e tutto questo spaventa l'investitore che quando mette i propri soldi vuole avere un futuro di certezza. Certezza. Ma è vero che un limite è il peso ingombrante, vero o presunto, della politica sull'economia? Ma non mi sembra che sia la politica, è proprio il nostro approccio all'impresa, che è un approccio che tende a imbavagliarla, a legarla e non a spingerla a fare. Senta, dottor Scaroni, lei alla festa del Fatto Quotidiano, l'anno su due anni fa mi sembra, ha detto che il nostro paese ha una tendenza a delinquere per reati economici più alta che negli altri paesi. Perché, secondo lei? Guardi, perché credo che derivi dalla nostra sostanziale sfiducia nello Stato, ma questo deriva dalla nostra storia. Certo è che l'artigiano che viene a casa tua più spesso in Italia che negli altri paesi cerca di farti fare senza fattura. Ma pensando ai suoi anni all'Eni, ha un rammarico per una cosa che avrebbe voluto fare e non ha fatto? Ma guardi, a posteriori ogni tanto ci ripenso, penso che avrei dovuto cedere il controllo della Saipem prima di quanto è avvenuto. Perché? Perché è un'attività diversa da quella di Eni. Saipem poteva essere anche, anzi è un'azienda che lavora per i concorrenti di Eni, è stata fonte di problemi per Eni, quindi nessun'altra compagnia petrolifera ha un braccio, aveva un braccio nel settore dei servizi, quindi avrei dovuto forse farlo. È l'errore che la cosa che doveva fare non ha fatto, e invece l'errore che ha fatto sempre lo stesso, che non avrebbe mai voluto commettere, ma che l'ha fatto. Beh, questo qui è un errore, no, guardi, non fare è un errore peggiore di quello di fare. Quindi è la stessa cosa, va bene. Senta, le faccio un'ultima domanda. La strategia di Papa Bergoglio, che punta molto su ortodossi e sciiti, cioè sulla Russia e sull'Iran, per combattere il jihadismo, è una strategia giusta? Sì. La condivide? La condivido totalmente. Senta, un'ultimissima, ma lei in Dio ci crede? Sì. Grazie. 800 24 00 24, numero verde, 349-238-6666, l'SMS, pubblicità. Mix 24. Allora, che titolo faresti, Mario, nell'intervista di Scaroni? È il super candidato a tutto, ma super candidato. Sì, perché però no, la cosa dell'Ilva mi sembra che sia, sì, che prenda bene. Quella è una notizia, no, anche, la, anche quella quando, anche il no, però. Eh beh, certo. Ce n'erano due. C'era un no e un sì. Un no e un sì. Il no e quindi è sì, super candidato. Forte del no, mi aiuto con le parole di Ettore Petrolini e il titolo è I Londrini vanno matti per me. I Londrini, carina. Mi fai la tua, sentire la tua canzone, subito, Pietrangelo? E allora oggi in metropolitana una signora che, lo sai come? Una come? Scena bellissima, una signora che si sente venire addosso alla felicità come se fosse un treno, e la felicità infatti le arriva incontro, ma lei non è bastato quel correre veloce di amore e dolore buttato alle spalle, è stata lei al contrario a buttare dentro il vagone la felicità e a portarsela via. Insomma, ha chiamato oggi l'ippogrifo, ha chiamato stamattina Annitrito e ha chiesto questo brano per dedicarlo a Rinaldo, ma anche a Orlando, con un messaggio: dov'è Angelica? Dov'è Angelica, Mario? Non so, dovrebbe saperle, butta a fuoco queste cose, perché io... Tu non ti intendi di Angelica? Di Angeliche in generale, no, niente. Solo diavoli. Solo diavoli. Diavolesse. E allora andiamo con la tua bolla. Andiamo. I would like to leave this city, this old town don't smell too pretty, and I can feel the warning signs running around my mind. Beh, hai evocato gli angeli. Beh, questa è una voce angelica, senza dubbi angelica, ed è di un grande artista che si chiama Aurora. Sentite che ugola. Meravigliosa. Vabbè. E dove ci porta Angelica? Aurora? Alla metamorfosi. Alla metamorfosi di un diavoletto, di Trump, perché ha perso, no? In Iowa, è proprio Iowa, è andata così. E la cosa interessante è che però è stato di cavalleresca correttezza nell'ammettere la sconfitta, ha ringraziato gli avversari, si è congratulato con loro e ha sorpreso un po' tutti, questo perché Trump ha fatto una campagna presidenziale finora devastante. Sì. E questo agli osservatori dice molte cose su quello che poi sarà il proseguo della campagna, cioè? Americana. Ma intanto c'è la tappa del New Hampshire, dove Trump è in vantaggio. Alcuni sondaggi oltre i 25 punti, vediamo che cosa succede. Nel campo democratico comunque c'è un elettorato diviso, almeno là in Iowa, tra la Clinton e Sanders, un testa a testa si divideranno i delegati. E la partita, ricordo ai nostri ascoltatori di Mix 24, sta tutta nel conquistare i delegati. E certo. Perché Cruz ne ha 8 e Trump 7, quindi vedete c'è solo uno di differenza. Di differenza. E in realtà la corsa è lunghissima. Certo. Il primo marzo, ricordo, c'è il cosiddetto Super Tuesday, si voterà in 13 stati, ci saranno moltissimi delegati a disposizione, lì cominceranno a vedersi un po' i giochi. Fino e quanti ne servono per avere la nomination? Per avere la nomination nel campo del Partito Democratico ne servono 2383. E i repubblicani? Nei repubblicani 1237. Quindi è ancora molto presto. La cosa interessante è che sembra una campagna elettorale tra le più incerte della storia degli Stati Uniti. Diciamo, molto divertente. Scaroni prima mi diceva, prima dell'intervista, diceva che secondo lui la Clinton alla fine ce la farà. molti dicono, appunto, molti osservatori, e Scaroni è certamente uno di questi, dicono che Clinton alla fine ce la farà. Vedremo. Però è interessante perché, per esempio, Ted Cruz ha vinto col voto degli evangelici. Certo. Non è che è un candidato migliore di Trump. Cruz è un altro, sì, no? Sì. È un altro di quelli che ci butta dentro con lo stivale in politica, insomma. 800-24-00-24, numero verde 349-238-6666, l'SMS. Intanto può accadere che rifiutare un lavoro per motivi etici porti delle ricompense inaspettate. È una nuova storia di coraggio, di innovazione che, come sempre, arriva dalla rete di Italia che cambia. Alessandra Fiori ha intervistato un altro dei nostri agenti del cambiamento. Dentro al cuore, che la politica sia ancora un'occasione. Valerio Morellato, 36 anni, è a capo dell'azienda di famiglia fondata dal padre, la Morellato Energia, che si occupa di fotovoltaico in Toscana. Buongiorno Valerio. Buongiorno. Valerio, tu da sempre sei fedele ai principi dell'economia solidale, ma nell'estate del 2012 quei principi sono stati messi a dura prova. Perché? Si è presentata un'azienda, ci ha sottoposto la richiesta di sviluppare un progetto per un edificio che loro dovevano realizzare, se non che durante il lavoro di sviluppo di questa idea una mia collega si è accorta che l'azienda che commissionava questo progetto produce siluri, armi, un'arma tra l'altro di quelle che non lascia spazio a doppi utilizzi, non è un fucile da caccia. Quant'era importante quella commessa per la tua azienda? Era abbastanza importante, poteva equivalere da sola a un mese di attività dell'azienda. E tu cosa hai fatto? Ci siamo confrontati all'interno con altri miei colleghi e alcuni mi hanno dato forza perché non se la sentivano di partecipare a un'attività che aveva una ricaduta bellica. E il distretto di economia solidale di cui facciamo parte ci ha dato una grossa mano perché ci ha promesso sostegno e passaparola positivo se avessimo tenuto fede alla nostra etica e non avessimo preso parte a questo lavoro. Cos'è un distretto di economia solidale? È una rete di realtà sul territorio che vorrebbero stare sul mercato applicando però contemporaneamente quelle buone pratiche di civiltà, di buonsenso, di solidarietà che vorrebbero farci andare verso un mondo migliore, sia in termini ambientali che sociali. E quindi grazie all'aiuto promesso dal distretto di economia solidale, che cosa è successo poi? Io ho scritto loro che anche se sapevamo che il nostro lavoro sarebbe sicuramente stato sostituito da altri, però non avremmo preso parte al progetto. E c'è stato un tantam attraverso internet, email, qualche rivista, qualche giornale e qualche mese dopo, con le persone che ci sono venute a cercare apprezzando la nostra scelta e chiedendoci dei preventivi, mi sono reso conto che avevamo realizzato il doppio del fatturato che avremmo fatto prendendo quella commessa. Grazie Valerio Morellato. Per altre informazioni su Morellato Energia e sulle altre realtà di Italia che cambia, www.italiachecambia.org. 800-24-00-24, numero verde 349-238-6666, l'SMS Salamino. Donne in attesa. E c'è chi sta in dolce attesa e chi invece va di gran fretta. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, annuncia al Family Day di essere incinta e l'Italia degli ottimati, quelli antropologicamente superiori, la ricopre di insulti. Maria Elena Boschi, ministro delle riforme, va invece di fretta e ad Arezzo, a casa sua, le Ferrovie dello Stato, lo rivela il giornale oggi in forma di indizi se non di prove, le portano il treno ad personam. Donne diversamente attese, Giorgia e Maria Elena, alla Meloni, Vladimir Luxuria rivolge auguri e figli trans. Luciana Littizzetto, forte di servizio pubblico, da Rai 3 ci mette il carico. Ma è ovvio che vada così. Giorgia Meloni manca del requisito fondamentale per essere accettata in società, Non solo non è di sinistra, ma non ha neppure un gender qualificante. Non è come un Roberto Mancini, su cui ancora qualche settimana fa si sono riversate le solidarietà di tutti. E quando a Mika, che dovrebbe essere una star del pop, su un manifesto scrissero una parolaccia, il Corriere della Sera ci montò sopra una stucchevole campagna di solidarietà. Avessero dato della zoccola a una star donna, sarebbe passata in cavalleria. Ma sulla nota rota sacra del sessualmente emancipato, niente. È come su De Rica, non si può. E infatti no, gli uomini sessuali no. Sono genitali e quali come noi, noi normali, sanno piangere, sanno ridere, sanno battere le mani. Donne diversamente attese, dunque. Il treno Freccia Rossa 9005 della linea Firenze-Milano ha spostato la partenza, non più quindi dal capoluogo toscano, ma da Arezzo, e così ha avuto il suddetto treno l'onore onomastico di essere ribattezzato Treno Boschi. È vabbè, un privilegium aretino. Adesso ce l'hanno con lei tutti. No, no, però scusa, a questo punto, giusto. A questo punto fa duopo una canzone. Che canzone? No, no, no, no, no, no. Ma che hai capito? No, ma il papà, quello è il suo papà. No, no, no, no, no, niente. Giovanni, che hai capito? Non quello. No, io non censura quello. Preventiva. No, no. Censura preventiva. Oh no, ma sembra Vianello quello di Rai 3. No, è questa. Questo davvero non è un complimento. È il famoso treno ad persona. E intanto noi salutiamo Enrico dalla Grecia, un nostro antico, tanti baci, antico ospite, tanti facciamo tanti auguri. Dice: beh certo, Scaroni vuole essere rieletto, però col petrolio a $30 gli è andata bene, l'ha detto anche lui fuori dall'intervista che gli è andata bene. E allora Mario, c'è un'altra bolla? E certo. Against me, and gravity. Bella, eh? Bella, grande voce. John Mayer, Gravity, ovviamente. Sentiamola ancora un po' in regia. Oh, I'll never know what makes this man with all the love that his heart can stand. Bella, bella, bella, bella. Dobbiamo salutare Antonio che ci fa tanti auguri. Cosa ha detto Antonio? Dice che si diverte a casa a ascoltarci con sua moglie, siamo contenti. Grazie, Antonio. La moglie è contenta? No, sono contenti tutti e due. Tutte dai, due. Dimmi la tua bolla. Ciao Antonio. Ma niente, io volevo tornare su una cosa che abbiamo affrontato anche nei giorni scorsi, insomma, Google Alphabet e i cosiddetti viaggi sulla Luna, perché quello che è successo in borsa ieri a Wall Street è molto interessante. Dice parecchio su quelle che sono, diciamo, i trend non solo del mercato finanziario, ma anche dell'industria del presente e soprattutto del futuro. Insomma, la nuova capogruppo di Google, sapete che c'è un ombrello che si chiama Alphabet ed è stato creato per fare chiarezza, diciamo, sulle varie attività del gigante di Mountain View. È diventata la società più ricca, più capitalizzata del mondo. Accidenti. E questo nonostante abbia dei progetti che vengono chiamati moonshot, cioè un po' pazzi, diciamo, un po' dei viaggi sulla Luna, letteralmente moonshot, anche li stanno certo. Progettando. E quanto perde in queste avventure che vanno da appunto i viaggi spaziali, l'auto senza il guidatore, senza il pilota e così via, costano una bazzecola, 3.6 miliardi di dollari. Ma la tantissimo. Ma la cosa interessante è che comunque il mercato è impazzito di gioia. Perché la gallina delle uova d'oro, cioè Google, quindi l'attività, quelli che fanno i Master in Business Administration direbbero, l'attività core del gruppo è molto forte, va bene la pubblicità, insomma vanno bene le attività del cosiddetto search box. Auguri a Google. E quindi hanno consolidato di fatto non solo la leadership nel loro mercato tradizionale, ma anche in quello dell'avvenire, del futuro della tecnologia. Futuro del sogno. Conseguenze, più 6%, 550 miliardi di capitalizzazione e superamento, anzi sorpasso di Apple che ne ha 540. E posso dire, sono bravissimi. Eh sì. Canzoniere! Un giorno ti lasciai per un interno folle miraggio e me ne andai lontano. E me ne andai per ogni suolo strano, cercando amore. E l'amore cercai l'estate e il verno. E sempre andai cercando amore, corsi cercando amore, ma l'amor non scorsi. E da casa tornai, malato in cuore. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS per chi vuole indovinare. Vogliamo rassicurare Fabio da Marostica, che ci dice di dare più spazio a chi come Morellato segue la giusta via per un mondo migliore. Noi lo facciamo tutte le settimane con grande piacere, e quindi ci fa piacere il suo incoraggiamento. Pubblicità. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta Mix 24. Quello che abbiamo passato in questi ultimi giorni è indescrivibile, ma il peggio deve ancora venire. Una miseria indicibile, morte, distruzione. Le famiglie della maggior parte dei caduti non sono state nemmeno informate. Quindi, se non ricevete nessuna notizia, molto probabilmente significa che sono stato ferito, fatto prigioniero, o che sono morto per la fame o per il freddo. Mi dispiace se questa è diventata una lettera d'addio. Non so quanti giorni ci restino ancora. Non so quanti giorni ci restino ancora. Le ultime lettere da Stalingrado, parole senza speranza dei soldati di Hitler intrappolati su una città del Volga. Il 2 febbraio del 43 i soldati della Wehrmacht si arrendono all'Armata Rossa e la prima sconfitta politica militare del Terzo Reich cambierà le sorti della Seconda Guerra Mondiale. Stalingrado, un inferno di ghiaccio, la più grande battaglia della storia, 200 giorni di combattimento fino allo scontro finale. I testimoni, i documenti, l'orrore, qui a Mix 24, il giallo della storia, dopo il giornale radio. Loredana da Udine per il canzoniere, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, cosa ci dice? Vi dico il titolo, che sì, è Il bello Antonio, e l'autore Vitaliano Brancati. Ah, giusto. La canzone di Marcello Mastroianni, favoloso. Perfetto. Sì, che sì. Fa di bello, signora Loredana Udine? E io ho un'azienda. Un'azienda? Sì, un'azienda di distribuzione di prodotti. Ah, bene. Però sì, ci segue. Sì. Certamente, sempre. Sono sintonizzata con voi su tutte le radio. Bene. Casa, ufficio. Grazie signora. Intanto ringraziamo anche Sergio da Mestre e gli diciamo che il pluralismo è aver sentire voci diverse, non sempre la stessa voce. Noi proviamo a farlo. Mario, c'hai ancora una bolla? Sì, allora, dunque, intanto segnaliamo che sono in corso scontri a Bengasi tra miliziani di ISIS e l'esercito regolare, se di esercito regolare si può parlare in Libia, diciamo. Certo. Quelli di Tripoli, diciamo. Quelli di Tripoli. Perché poi ci sono anche quelli di Tobruk, che esatto, poi ci sono, insomma, qua è un disastro. Lo infatti, sappiamo. Abbiamo sentito prima che il governo, un governo unitario, prima che arrivi, forse bisogna aspettare ancora un po'. Direi proprio di sì. E quindi c'è questa situazione di gravissima tensione militare in corso. Segnalo che tutto questo avviene in un momento in cui gli americani stanno pianificando un'operazione militare, i francesi stanno facendo lo stesso. Ieri c'è stato uno scambio durissimo di opinioni, chiamiamole così, tra il ministro francese e l'omologa Pinot. Pinotti. Sì, sì, durissimo. Durissimo. Questo segnala che cosa, però? Che il problema non è certo la polemica sugli sbarchi ISIS. Il problema è l'intervento in Libia. E ho il tremendo sospetto che ancora una volta. Su quello. Sì, e soprattutto che ancora una volta i francesi ci fregano in curva di nuovo. Beh, vediamo. Quindi, vediamo, questo lo vediamo. Vediamo. Intanto, adesso col professor Roberto Bernabei. Commentiamo le più importanti notizie di medicina apparse sulle riviste top del mondo. Medicina, le frontiere della ricerca. Journal Watch, gennaio 2016. Terapia con glucosamina e condroitina nell'artrite di ginocchio. L'artrite di ginocchio è uno degli effetti dell'invecchiamento, è una ormai normale, sempre di più riconosciuta patologia, anche perché ci sono, nei casi gravi, importanti, ci sono delle prospettive chirurgiche, il rimpiazzo, la protesi di ginocchio, che sono straordinariamente efficaci. Ora però non è che la protesi di ginocchio con l'intervento, la riabilitazione, i costi, sia una procedura semplicissima e una procedura che tutti quanti accettino con piacere. Per cui l'utilizzo di una terapia medica certamente sarebbe benvenuto e da qualche tempo la glucosamina e la condroitina vengono proposte come soluzioni e come terapie mediche nell'artrite di ginocchio. E allora si è visto in questo studio esattamente che cosa fanno. Purtroppo né da sole né in combinazione diminuiscono i sintomi e migliorano la funzione nell'artrite di ginocchio. Per cui la risposta della giuria è negativa. La terapia medica per l'artrite di ginocchio è poca cosa e bisogna, in casi evidentemente selezionati, indicati e seguiti dall'ortopedico con attenzione, bisogna procedere, se l'impotenza funzionale è importante, alla terapia chirurgica e alla protesi. Mi dispiace. Abbiamo al volo, sempre sulla Libia, aerei non identificati hanno sorvolato Sirte. Qui evidentemente si sta preparando qualcosa. La guerra. Vedrete. E per chiudere, Gloria Guerrera, vediamo lei che cosa ha scelto. Io ho scelto Gianni Morandi per quella smisurata frase che vuole un giorno d'amore che vale più di 100 anni. Ma chi se ne importa? E chiudi la finestra se non vuoi sentirmi più. Ma chi se ne importa se adesso il mio cuore si spezza? Un giorno